Componimento 169° del canzoniere di Francesco Petrarca. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Pien d'un vago penser che me desvia da tutti gli altri e fammi al mondo ir solo, ad ora a me stesso m'involo, pur lei cercando che fuggir devria. E veggiola passar sì dolce e ria, che l'alma trema per levarsi a volo. Tal d'armati sospir conduce stuolo questa bella d'amor nemica e mia. Ben si non erro di pietate un raggio, scorgo fra l nubiloso altero ciglio, che n parte rasserena il cor doglioso. Allor raccolgo l'alma e poi chiaggio discovrirle il mio mal preso consiglio. Tanto gli ho a dir che incominciar non oso. Fine del componimento.